Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro secondo, versi 401-707. Fulminato Fetonte, Giove controlla i danni provocati dal figlio di Apollo e il Sole, guidando maldestramente il carro di suo padre. Il padre onnipotente ispeziona le immense mura del cielo e controlla non rischi crollarne questo o quel tratto avariato dalla violenza del fuoco. Una volta appurata nell'immutata saldezza, prende in esame la terra e i problemi degli uomini, ma soprattutto pensa all'Arcadia sua. Le restituisce sorgenti e fiumi che ancora non osano scorrere, rende l'erba al terreno, le foglie agli alberi e ordina ai boschi sfregiati di riprendere il verde. Va e viene, e nell'andi rivieni su una fanciulla di Nonacre gli si incollano gli occhi, nelle ossa gli sfrigola il fuoco. Non è una che pensa ad ammorbidire la lana cardandola o a cambiare pettinatura. Con una fibbia ferma la tunica, con un nastro i capelli arruffati. Se impugna un'asta leggera o un arco, è un perfetto soldato di Trivia. Fra quante ninfe frequentano il Menalo, non ce n'è una tanto cara alla dea. Ma esiste predilezione perpetua? In alto il sole ha giusto doppiato la cima del cielo, che lei s'addentra in un bosco intonso dal tempo dei tempi. Dalla spalla ha sfilato la faretra, ha allentato la corda dell'arco e s'è sdraiata sul tappeto d'erba che copre la terra, sulla faretra a colori poggiando la testa. Come Giove la vede così, stanca e incustodita, di questo colpo di mano mia moglie non saprà nulla, si dice. O anche venisse a saperlo, una scenata la vale. E subito, assunto aspetto e costume di Diana, le fa: «Oh, cara fanciulla, che annovero fra le mie care fanciulle, su che monti sei stata a caccia?» Salta su dal prato la fanciulla e dice: «Buongiorno, dea, che secondo me, anche se lui mi sente, sei più grande di Giove». Ride Giove a sentirsi anteposto a se stesso e la bacia in bocca, con una intemperanza che non sta bene tra vergini. E lei, che vuol raccontare in quali boschi cacciasse, lui la interrompe abbrancandola e, in corso di stupro, si svela. Si dibatte lei, per quanto dibattersi possa una donna, si dibatte come Saturnia. Se l'avessi vista saresti più indulgente, ma contro un uomo può farcela una bambina? E chi contro Giove? E Giove risale trionfante per l'etere e la lascia lì che detesta il bosco che le è testimone e complice e se la dà a gambe lei, che per poco non si dimentica di raccogliere frecce e faretra e l'arco appeso ad un ramo. Quand'ecco con tutto il suo seguito la dea di Ditte che incede in cresta al Menalo, fiera d'una strage di belve, e la scorge, la riconosce, la chiama. Al suo nome lei si defila, temendo a tutta prima che in quella ci fosse Giove. Ma quando vede le ninfe che le camminano a fianco, si rende conto che non c'è trucco e si unisce alle altre. Ah, com'è difficile mascherare nel viso una colpa. Stenta a staccare gli occhi da terra e non osa affiancare la dea come al suo solito e prender la testa del gruppo. Non apre bocca e, arrossendo, tradisce l'oltraggio patito. Non fosse vergine lei, per mille indizi Diana si accorgerebbe del fallo. Se ne accorgono, pare, le ninfe. Nove volte si è completato il disco lunare che a caccia la dea, spossata com'è dalla vampa di suo fratello, trova un boschetto freschissimo da cui, mormorando, si versa un ruscello che porta con sé sassolini smussati. Il posto le piace e intinge la punta d'un piede nell'acqua e le piace anche l'acqua e dice: «Qui nessuno ci guarda, perché non facciamo il bagno nude in quest'acqua di fonte?» Arrossisce la nostra. Si sono spogliate tutte quante, lei sola no. Lei prende tempo. Allora spogliare la spogliano le altre e col suo corpo nudo viene alla luce la colpa. A lei disperata, a lei che con le mani vorrebbe nasconder la pancia, «Vattene via!» grida Cinzia, «non profanare la fonte sacra!» e le ingiunge di scomparirle davanti. Da tempo al corrente dei fatti, la consorte del grande signore del tuono rimanda al momento giusto l'atroce castigo. Ma adesso non ha più remore, adesso che la rivale è ciò che la esaspera, ha dato alla luce il piccolo Arcade. Su loro, puntando gli occhi e i furibondi pensieri, non ci mancava che questa si sfoga: «Puttana, che tu restassi incinta per umiliare con questo tuo parto me e davanti a tutti svergognare il mio Giove. Ma non la passi liscia. Te lo levo quel corpicino che ti incanta e che incanta tanto mio marito, sciupa famiglie». Ciò detto la affronta e tirandole sulla fronte i capelli la butta a terra bocconi. Lei tende supplici braccia e quelle braccia cominciano a indurirsi di peli neri. Le mani le si arrotondano e sviluppando unghioni ricurvi le fanno da piedi. E il visino, un tempo pregiato da Giove, ah sì, le si sforma in un ceffo largo e piatto. Ad evitar che commuova con preci e frasi toccanti, il dono della parola le toglie. Iroso ed ostile le esce di gola un rantolo roco che mette paura. Ma per quanto ridotta si un'orsa, le resta la mente di prima e, testimoniando il suo strazio con gemiti ininterrotti, leva alle stelle del cielo le mani o quello che sono e, senza poterne parlare, si cruccia dell'ingratitudine di Giove. Ah, le volte che, non osando fermarsi nel bosco muto, trotta davanti alla casa e nei campi una volta suoi. Ah, le volte che fugge dai latrati dei cani braccata per forre, lei cacciatrice, atterrita dai cacciatori. Spesso alla vista di belve si nasconde, scordando chi è, e orsa davanti a un orso in montagna si prende paura e ha terrore dei lupi, sebbene suo padre fosse dei loro. Ed ecco che, appena compiuti i 15 anni, il nipote di Licaone, Arcade, della sua mamma non sa proprio nulla, mentre a caccia grossa sta scegliendo l'anfratto più adatto per imbrigliare di reti le selve dell'Erimanto, in sua madre s'imbatte, e sua madre a vederlo si blocca come chi riconosca qualcuno. Lui, Arcade, che non capisce, si ritrae. Quegli occhi sgranati che non gli si staccano di dosso gli fanno paura, e quando lei accenna a venirgli vicino si dispone a trafiggerle il petto con la lancia assassina. Però l'onnipotente si oppone, rimuove ad un tempo il delitto e i due, e rapendoli entrambi nel vuoto del vento, li scrive in cielo facendone due costellazioni contigue. Giunone va in bestia a veder rifulgere fra le stelle la rivale e decide di scendere in mare da Teti d'argento e dal vecchio oceano, che anche agli dèi incutono spesso rispetto. E quando le chiedono il perché di quel viaggio, attacca: «Vi chiedete perché la regina degli dèi abbandoni i palazzi del cielo e venga da voi? In cielo, al mio posto, c'è un'altra. Sbugiardatemi, quando la notte oscurerà il mondo, se non vedrete al sommo del cielo stelle di recentissima nomina. Questo mi offende, laddove l'ultimo cerchio, il più stretto di tutti, si avvita intorno all'asse celeste. Chi si guarderà più dall'offender Giunone? Si pentirà chi d'averla offesa? Se quelli che voglio punire finisco per premiarli. Perché che ho fatto? Che autorità m'è rimasta? Non volevo restasse donna, ne han fatto una dea. Così castigo i colpevoli, questo il mio sterminato potere. Ma le renda l'aspetto di prima, le tolga i tratti da bestia, come ha fatto con quell'argiva sorella di Foroneo. Perché, ripudiata Giunone, non se la porta nel mio letto, e già che c'è, si prende Licaone per suocero. Voi però, se l'offesa che investe la vostra figlioccia vi offende, negate l'azzurro dell'acqua alle sette stelle dell'orsa, bandite chi è assunto in cielo per semplice contropartita ad uno stupro, che non si bagni nel purissimo mare la Troia. Gli dei del mare annuiscono. Saturnia risale per l'aria tranquilla sul comodo carro tirato da variopinti pavoni. Sì, variopinti da poco, da quando Argo è morto. Come da poco tu, che prima eri candido, corvo chiacchierone, ti sei ritrovato di colpo con le ali nere. In effetti, una volta, il volatile piumato di neve pareva d'argento, così da competere con l'immacolate colombe, da non sfigurar con le oche, che dando l'allarme avrebbero il Campidoglio salvato, né coi cigni che adorano i fiumi. La lingua lo ha rovinato. Per colpa di quella linguaccia, il bianco colore d'un tempo adesso è il contrario del bianco. Nell'intera Tessaglia non c'è mai stata donna più bella di Coronide di Larissa. Ti piaceva Apollo di Delfo finché si mantenne illibata, o almeno così risultava. Ma il tuo sacro uccello scoprì che non lo era per niente, e per denunciare l'occulta magagna, spione spietato, si fionda dal suo padrone. Se non che la cornacchia pettegola nella scia gli svolazza, curiosa di tutto, e sentito il motivo del viaggio, non sei sulla buona strada, gli dice, dà retta alla mia lingua, dà retta ai suoi brutti presagi. Chi ero e chi sono lo vedi, prova a chiederti come mai. La fedeltà mi ha fregato. Tant'è, qualche tempo fa, Pallade aveva rinchiuso Erittonio, piccolo senza madre, dentro una cesta intrecciata di vimini didattica, che aveva affidato alle tre figlie di Cecrope e Anfibio, con l'ordine che non guardassero che cosa ci aveva nascosto. Nascosta fra il fogliame leggero, nel fitto di un olmo, spiavo che cosa facessero. In due la consegna rispettano fedelmente, Pandroso ed Erse. Aglauro dà delle vigliacche alle sorelle, scioglie i legacci e dentro la cesta vedono un bimbo con tanto di serpente sdraiato vicino. Riferisco alla dea. Per premio del servizio, mi sento dire che Minerva la sua protezione mi revoca e mi degrada più in basso della civetta. Il mio castigo dovrebbe insegnare agli uccelli di non cercarsi guai con la chiacchiera. Ma, dico, non era venuta a parlarmene lei? Chi le aveva chiesto qualcosa? Domandalo a Atena in persona. Stizzita che sia, non arriverà per la stizza a negare la cosa. Chi ti parla, come ben noto, è figlia di Coroneo, famosissimo infocide, io principessa di sangue reale, corteggiata da spasimanti, non far quella faccia, ricchissimi. La bellezza mi incastra. E difatti un giorno che andavo a spasso, pian piano, come mi piace, sull'arena al bordo del mare, il dio Nettuno mi vede e perde la testa. Ed avendo sprecato fin troppo tempo in parole gentili, decide di violentarmi e mi insegue. Io scappo, abbandono la spessa battigia e son lì che arranco, affondando dentro la sabbia. Invoco uomini e dei, la mia voce non giunge ad orecchio mortale. Commossa da un'altra vergine, è lei, la dea vergine, a darmi una mano. Tendo le braccia al cielo e prendono ad abbrunirsi di penne leggere le braccia. Tento di farmi cadere dalle spalle il vestito, e il vestito è piuma, una piuma a fondo radicata sotto la pelle. Cerco di battermi il petto nudo con le due palme, ma non mi ritrovo più né palme né petto nudo. Corro, eppure la sabbia non mi frena più i piedi, perché la rasento appena, e già volo via nell'aria, ed illibata mi assegnano al seguito di Minerva. A che pro? A che pro se al mio posto ha finito per insediarsi Nictimene, uccellificata per un orrendo delitto? Nell'isola tutta di Lesbo la storia è stranota, ma tu hai mai sentito parlare di come contaminasse Nictimene il letto del padre? Anche lei fatta uccello, ma ben consapevole della colpa, rifugge la luce e nasconde nelle tenebre tanta vergogna, e in cielo nessuno la vuole. Questi assennati richiami, le risponde il corvo, ti vadano contro gola. Non so che farmene di avvisi che portano male. Non lascia il viaggio intrapreso e va a riferire al suo capo d'aver visto Coronide con un giovane tessalo sopra. Il dio innamorato, a sentire la storiaccia, si perde l'alloro e in una volta smarrisce contegno, plettro e colore, e come nel cuore gonfio bolliva di rabbia, mette mano all'arma di sempre, tende l'arco curvandone le corna e con l'inesorabile freccia trapassa quel petto che tante volte ma tante aveva premuto al suo petto. Colpita da un gemito lei, e appena estrattosi il ferro dalla carne, il candido corpo inonda di sangue scarlatto, e dice: «Potevo, Febo, pagarti il mio debito, ma dopo aver partorito, adesso in una ne muoiono due». Nient'altro, e insieme col sangue profonde la vita. Svuotato dell'anima, il corpo si arrende al gelo della morte. Si pente, ahimè, troppo tardi dell'atroce castigo. L'amante, per aver dato retta, si odia e per aver perso la testa. E odia l'uccello che lo ha costretto a sapere la colpa ed a crucciarsene tanto. L'arco e la propria mano odia, e con la mano le frecce, proiettili pazzi. La solleva, la scalda e tenta di vincere il fato con cure tardive, scomoda invano tutta la scienza medica. Frustrato ogni tentativo, quando vede allestita la pira, dove l'ultima fiamma brucia il corpo dei morti, allora dal fondo del cuore gli monta un gemito. Un dio non può bagnarsi il viso di lacrime, e pare la mucca che guarda dall'orecchio destro del boia fragorosa piombare la mazza fra le tempie del suo vitellino a fracassargli la testa. Ma una volta versatile e inutili aromi sul seno, una volta abbracciatala e resa giustizia di tanta ingiustizia, Febo non tollera che in quelle stesse ceneri incenerisca il proprio seme. Lo strappa dalle fiamme e dalla pancia della madre e lo porta nell'antro di Chirone, uomo e cavallo. Quanto al corvo, che s'aspettava un premio per la spiata esatta, lo escluse dal novero degli uccelli bianchi di piume. Il semiequino, entusiasta di quell'allievo di razza divina, si compiaceva dell'onerosissimo onore. Ed ecco arrivare vestita dal rosso dei suoi capelli la figlia del centauro, che a suo tempo la ninfa Cariclo aveva sgravato in riva a un fiume impetuoso e chiamato Ociroe. A lei non bastava conoscere a fondo le arti del padre, vaticinando cantava gli arcani del fato. Per cui la volta che, tutta impregnata di furia profetica e arroventata dal Dio che le smania nel cuore, lei vede il piccolo, cresci bambino per la salvezza del mondo, gli dice, non sai quanti corpi ti dovranno la vita se l'anima ti sarà consentito di rendere al mortale che l'ha perduta. Ma il giorno che, tanto osando, avrai scandalizzato gli dèi, la folgore di tuo nonno ti impedirà di ripeterti, e Dio sarai corpo e sangue, per ritornare Dio da corpo che eri, così replicando due volte il destino. E tu, carissimo padre, a tutt'oggi immortale, e creato conforme la tua natura, a perpetuarti nei secoli, sognerai di poter morire quando il sangue di un orrido serpente ti strazierà irradiatosi da una ferita. E anche te, immortale, i celesti renderanno soggetto alla morte e le tre dee taglieranno il filo della tua vita. Ma altro nasconde il destino. Lei sospira dal fondo del petto e le sbocciano lacrime a rigarle tutta la faccia. Mi prevengono i fati, mormora. Mi si proibisce di dire di più. Non ho facoltà di usar più la mia voce. Non valeva quanto mi costa quest'arte, se mi ha tirato sul capo l'ira di un dio. Meglio era ignorare il futuro. Già sembra mi venga sottratta la forma umana. Mi piace già l'erba per cibo, già smanio di scorrazzar per i campi, già mi cambio, costante di famiglia, in una cavalla. Però perché tutta intera? Mio padre almeno è biforme. Parla così, ma l'estrema sezione dei suoi lamenti, intelligibile appena, si perde in parole confuse, e già non fa più né parole né i versi d'una cavalla, tutt'al più di chi voglia imitarli, ma in un attimo emette nitriti inconfondibili e muove le braccia a correr sui prati. Allora le dita si assemblano e nella cornea di un'unica unghia leggera cinque unghie si giuntano. Cresce il volume della testa e del collo, il di più del suo lungo vestito si fa coda. I capelli che sciolti portava sopra le spalle sventolan verso destra in criniera. Voce e figura non sono più quelle. Il portento le ha modificato anche il nome. Piangeva il centauro figlio di Filira e ti chiedeva, dio di Delfo, aiuto, ma invano. Potevi mai trasgredire un decreto di Giove? E seppure avessi potuto, all'atto non c'eri, battevi l'Elide e i campi della Messenia. Erano i tempi quelli che andavi vestito di pelli come un pastore, gravata alla sinistra da un rozzo bastone, l'altra da una zampogna di sette canne scalari. E mentre soffrivi d'amore, consolandoti con la zampogna, le tue vacche incustodite pare che sconfinassero nelle terre di Pilo. Le adocchia Mercurio, il figlio di Maia, e con la destrezza di sempre le ruba e nasconde in un bosco. Nessuno si accorge del furto, salvo un vecchio che tutti conoscono in quelle campagne. I vicini lo chiamano Batto. Aveva in custodia i pascoli erbosi e i boschi del ricco Neleo, nonché le mandrie delle sue cavalle di razza. Si preoccupa il dio e, presolo gentilmente da parte, gli fa chiunque tu sia, se qualcuno ti chiede buon uomo di queste bestie, tu non hai visto un bel niente. In cambio del favore, prenditi questa meraviglia di vacca e gliela consegna. Il buon uomo la prende e soggiunge, tranquillo, è più facile sia questo sasso a denunciare il tuo furto, e indica un sasso. Fa finta di andarsene il figlio di Giove, ma subito torna, cambiato e di figura e di voce. Contadino, dice, se hai visto passare da queste parti delle mucche, aiutami, voglio ripescarle, me le hanno rubate. In premio penso di darti una vacca col suo torello. Tentato dal doppio compenso, il vecchio risponde, le trovi ai piedi di quel monte lì, e c'erano ai piedi del monte. Ride il nipote di Atlante, così mi tradisci con me. Con me mi tradisci, carogna? E cambia quel cuore spergiuro in una pietra durissima che ancora si chiama la spia, bollando il povero sasso d'un'infamia che proprio non merita.